Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, già si sente che sarà una giornata caldina. Teniamone conto anche quando sistemiamo il nostro frigorifero, la nostra dispensa, per evitare sprechi inutili o fastidiosi mal di pancia. Ma noi abbiamo un asso nella manica ed è già in linea con noi il dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto in nutrizione. Dottor Donegani, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottor Donegani, fa caldo, è estate d'altronde, e noi dobbiamo avere un pochino più di attenzione nella conservazione degli alimenti, perché i nemici del cibo in estate sembrano più cattivi del solito. Sappiamo che quando fa caldo tutto va male più in fretta e questa stagione è anche considerata un po' la stagione del mal di pancia. Dottor Donegani, ci aiuti un po' lei a mettere le cose a posto, nel posto giusto? Beh sì, è vero, in effetti l'estate è bellissima, però non piace soltanto a noi, sono soprattutto i microrganismi, i nemici del cibo, che con le temperature estive aumentano incredibilmente la velocità con cui si moltiplicano, per cui addirittura da un batterio nel giro di una decina di ore, se non rispettiamo le normali condizioni di frigorifero, che ma se ci dimentichiamo fuori qualche cosa possono svilupparne addirittura alcuni miliardi, per cui effettivamente possono diventare poi un rischio per la salute, perché molti microrganismi o sì, quando li mangiamo, cioè sono loro stessi a produrci dei disturbi, per esempio la salmonella, oppure producono delle sostanze, delle tossine che eliminano e rimangono nel cibo, per esempio lo stafilococco. Per cui oggi è in estate più che mai necessario cercare refrigerio, ma soprattutto offrirlo ai nostri alimenti con il frigorifero, che rimane sempre il nostro migliore amico. Dottor Donegani, ci dia delle regole molto semplici, le ripassiamo con lei e poi ci aiuta a individuare quelle che sono un po' gli errori più frequenti, quelli che facciamo un po' senza pensarci, o perché abbiamo sempre fatto così, o perché non cambiamo, non considerando che con il caldo la situazione va affrontata in modo differente. Sì, ma guarda, una cosa fondamentale è quella di applicare anche al frigorifero di casa la regola cosiddetta del FIFO, che starebbe per first in, first out, cioè quello che mettiamo dentro, ricordiamoci di non lasciarlo sul fondo, quello che entra per primo in teoria dovrebbe uscire poi anche velocemente dal nostro frigorifero, per non ritrovarci magari poi alla fine, dopo qualche settimana, a scoprire, che so, una bella confezione di qualcosa di buono, addirittura magari delle fettine di carne che sono rimaste nascoste dietro e che ormai sono immangiabili. Quindi ruotare le merci nel frigorifero, ruotare quello che mangiamo. Poi è ovvio, cioè cercare di programmare già la spesa in un modo intelligente, nel senso che se noi vogliamo limitare al minimo la spesa, come si fa adesso, una volta alla settimana o magari anche 10 giorni, teniamone conto quando facciamo la lista della spesa, cioè in effetti compriamo alcune cose fresche, però in piccola quantità, penso a fresche vuol dire deperibili, per esempio mozzarella, per esempio formaggi come la certosa, piuttosto che della carne, pollo, pesce, così. Gli affettati, e già immaginiamo a quando nella scaletta del nostro menù li mangeremo, il pesce il giorno dopo, dopo 2 giorni al massimo, che e compriamo anche nella stessa categoria dei freschi quei prodotti che invece durano un po' di più, così arriviamo tranquilli alla fine della nostra spesa, al frigo semi vuoto, però ancora per esempio con i finocchi croccanti, con le carote che sono ancora buone, anche per la frutta questo vale, cioè possiamo prenderla magari un pochino acerba, pensando poi di mangiarla più avanti, e questa è una cosa. Poi l'altra cosa imperativa è proteggere tutti gli alimenti rigorosamente nelle vaschette o con le pellicole a seconda dell'alimento che abbiamo, e poi ovviamente a ricordarsi, come abbiamo detto altre volte, che nel frigo non tutti gli spazi sono uguali. Quelli certo. più freddi sono sul basso e lì ci vanno gli alimenti più deperibili, lì ci vanno il pesce, lì ci va la carne, soprattutto la carne trita, che è estremamente deperibile ma anche estremamente buona per farci gli hamburger. Dopodiché, man mano che andiamo in alto, possiamo mettere appena più sopra i formaggi freschi, un po' più sopra ancora, negli ripiani centrali, i formaggi più stagionati, i salumi in busta, così, e sopra in alto magari quei sottoli, quei sottaceti che abbiamo aperto, le marmellate anche che abbiamo aperto e che però poi devono essere, una volta aperte, conservate in frigo. Dottor Donegani, messaggio ricevuto. Intanto che lei ci raccontava, io cercavo di vedere se avevo fatto, di capire se avevo fatto tutto giusto e passavo in rassegna i piani del mio frigorifero. Ci siamo. Quali sono gli errori più frequenti, dottor Donegani? Quelli che facciamo un po' quando abbiamo un po' la capa fresca? Ma guarda, uno dei più frequenti, paradossalmente, è nel mettere in frigo le cose che invece non ci andrebbero, cioè, perché il frigorifero può anche delle volte danneggiare degli alimenti. Se penso ai pomodorini ciliegini, datterini, così, questi non c'è nessun motivo di metterli in frigo, anche perché il freddo danneggia la loro struttura, raggrinziscono, non si conservano meglio. Piuttosto prendiamoli non maturissimi, ma lasciamoli fuori. E lo stesso discorso poi adesso è uno splendore i piccoli frutti, no? I frutti che ci regala la natura, mirtilli, more, sono quasi degli alimenti farmaci, da tanto sono non solo buoni ma anche salutari. Ecco, quelli assolutamente no in frigo, aumenta ulteriormente la loro deperibilità. Per cui, prima cosa, mettiamo in frigo quello che effettivamente va messo in frigo. E poi l'altra cosa fondamentale che facciamo adesso, perché non abbiamo voglia di stare davanti ai fornelli, è non cuciniamo porzioni esagerate, per esempio di insalata di riso, insalata di pasta, queste cose che pure sono buone, con l'idea di tenerle lì all'infinito per 5-6 giorni. Una insalata di riso dopo 3-4 giorni è meglio non consumarla, anche perché offre molta superficie allo sviluppo dei microrganismi, per cui non lasciamoci prendere dall'idea di fare le scorte, ecco. Dottor Donegani, lei come lo pulisce il frigorifero? Ma oggi c'è da dire una cosa: una volta si diceva assolutamente mai usare detersivi, così, ed era giusto, perché oltretutto hanno anche un odore, non dimentichiamoci che nel frigo ci sono alimenti, il latte stesso per esempio, il burro, che assorbono, che molto, assorbono molto facilmente gli odori. Oggi però esistono dei prodotti specifici per i frigoriferi che sono in odore e garantiscono una buona pulizia, altrimenti l'acqua con una discreta quantità di aceto bianco dentro va sempre benissimo, e anche l'acqua e bicarbonato, che è un vecchio rimedio, però effettivamente funziona sempre. Diciamo una volta ogni 10 giorni sarebbe perfetto, come minimo. Poi, dottor Donegani, lei ha parlato di bicarbonato. Le nostre nonne suggerivano di mettere una tazza con all'interno del bicarbonato per assorbire eventuali odori, esatto, del frigorifero. Vale ancora oppure? Sì, no. È un buon rimedio, è semplicemente perché tende a essere igroscopico, tende a assorbire tutte le particelle che ci sono, anche se oggi, devo dire la verità, sono più efficaci i deodoranti per il frigorifero, perché le molecole, le particelle odorose, no, si sciolgono molto meglio nei grassi che non nell'acqua, quindi il bicarbonato assorbe la parte acquosa, no, e diventa igroscopico, si dice, un po' come il sale, anche del sale andrebbe bene. Ma questi sono pensati proprio per assorbire anche le particelle sciolte dei grassi, che sono quelle che hanno l'odore più intenso. Ultima domanda, ultimissima: nel cassetto della frutta e della verdura, conservo naturalmente questi prodotti che d'estate sono facilmente deperibili. Noto che c'è un po' di muffa sulla pesca piuttosto che sulla zucchina. Taglio via quella parte e posso consumare il frutto? Allora, ci vuole buon senso. In linea di massima partiamo da questa idea. Tutte le muffe che crescono sui vegetali sono potenzialmente pericolose. Come dicevamo prima, non fanno male in sé le muffe, ma possono produrre delle tossine che poi in realtà per accumulo, si accumulano nel nostro organismo e possono dar problemi. Per cui se la muffa è diffusa, allora buttiamo via tutto. Se c'è una macchiolina su una zucchina, così tagliamo metà, la metà della zucchina con la macchiolina la buttiamo, puliamo bene l'altra, questo è importante, e asciughiamo molto bene la verdura quando la mettiamo dentro, eventualmente lavata, e a questo punto insomma i rischi si riducono moltissimo, perché è anche un peccato buttare via tanta roba. Certo. Dottor Donegani, vado a mettere un po' in ordine il mio frigorifero, intanto la ringrazio e la saluto, le auguro una buona estate. Altrettanto a voi, buona estate. E per oggi è tutto, come sempre vi invito a seguirci dopo il GR delle 12 per gli appuntamenti che arrivano dal mondo della ricerca. Ringrazio Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Valentina Ternullo in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Buona giornata da Nicoletta.